Non capita spesso di questi giorni tristi di trovare sui giornali una notizia capace di strappare un sorriso, ma a volte con un po' di fortuna succede. Io per esempio, nonostante la situazione non particolarmente brillante in cui mi trovo, mi sono rallegrato abbastanza leggendo sui quotidiani di qualche giorno fa un trafiletto relativo al senatore Marco Boato dei Verdi. Dico un trafiletto, ma il Corriere della Sera in realtà ha dedicato all'episodio una breve sequenza fotografica. Sembra che il senatore in questione, trovandosi a condurre un dibattito sul tema della pace e della guerra in quel di Trento, sede, se non mi inganno, del suo collegio elettorale, sia stato affrontato da un giovanotto dal viso coperto che gli ha disinvoltamente scagliato una torta in faccia. Il facinoroso, che fa parte di una struttura denominata Laboratorio Disobbediente, intendeva esprimere la propria disapprovazione per il fatto che il celebre parlamentare, il cui impegno pacifista è ben noto da molte legislature, avesse recentemente votato a favore dell'intervento delle truppe italiane in Afghanistan. La vittima, detergendosi il viso dalla panna montata, si è limitata a commentare che il gesto non gli sembrava particolarmente pacifico. Aveva ragione, poveretto, perché anche le torte vanno considerate proiettili se categorizzate e utilizzate come tali, e noi uomini pacifici di proiettili non ne dovremmo lanciare a nessuno. Ma che volete, sono costretto ad ammettere che la notizia non mi ha affatto scandalizzato. Tutt'altro. E non solo perché ho avuto in un passato lontano qualche occasione di conoscere il futuro senatore e che aveva un ruolo piuttosto su in una certa organizzazione eversiva di cui ancora oggi mi onoro di aver fatto parte, e per dire proprio tutta la verità ho sempre pensato che una bella torta in faccia di quelle con tanta panna fosse proprio ciò che il medico gli avesse ordinato. Il problema è molto più complesso. Lanciare una torta in faccia a qualcuno è un gesto che si inserisce in una tradizione nobile e antica. In centinaia di farse, voi cinematografiche, voi teatrali, il gustoso proiettile ha concluso la sua traiettoria sui lineamenti di coloro cui la distribuzione delle parti assegnava il ruolo del prepotente e dello smargiasso. I bersagli disegnati di quel genere d'aggressione sono sempre stati, che so, il poliziotto formalista, il bottegaio insensibile, il borghese pieno di sé, il maestro ignorante e borghioso, le varie figure, insomma, in cui la fantasia popolare riconosceva il volto inconfondibile nella mutevolezza dei tratti dell'autorità costituita e soddisfatta di sé. Tutte figure, peraltro, contraddittorie. Perché il popolo della farsa sapeva benissimo chi comandava davvero e chi faceva solo finta, chi esercitava il potere e chi si limitava a servirlo, e in quegli esponenti a basso livello e in quelle, diciamo così, autorità da strada vedeva dei simboli più che delle concrete incarnazioni di un'autorità la cui vera sede stava altrove, e dei poveracci costretti a cercare un'apparenza di autorevolezza nell'affettazione, spesso irresistibilmente comica, di una dignità tutta formale. Quella dignità appunto destinata ad andare irrimediabilmente in frantumi al primo impatto con la superficie cremosa del ghiotto proiettile, il cui valore era in ultima analisi di natura eminentemente demistificatoria. Il senatore Boato naturalmente non rientra in questa casistica. Sarà forse un po' soddisfatto di sé, o almeno un tempo lo era, ma è un rappresentante del popolo democraticamente eletto, non è un poliziotto né un mottegaio né un'altra figura di cattivo da farsa, e non può certamente essere considerato prepotente, smargiasso, ignorante o borioso. Ma ammetterete anche voi che un rappresentante del popolo che giunge a tali insoliti patti con se stesso da votare in nome di un impegno pacifista per un intervento militare si imbarca su una di quelle vie, sulla via di quelle contraddizioni che conducono presto o tardi a ricevere una vigorosa portata tra il mente e la fronte. Che è un gesto violento, lo so, ma abbastanza innocuo per una vittima da farci passare sopra l'imputazione. Un gesto che non fa male e oltretutto non umilia, perché nessuno può sentirsi umiliato da rientrare in una tradizione che fu propria dei Chaplin, dei Keaton, dei Senne, dei Keystone Cops e di tanti altri grandi artisti popolari. L'unico rischio rappresentato da una torta in faccia è quello del ridicolo. Ma è un rischio cui certi personaggi si espongono comunque da soli e senza bisogno che nessuno gli lanci alcunché. Ed il ridicolo naturalmente non deve aver paura di chi non ha fatto niente per provocarlo. Come dicevamo una volta, sarà una risata che vi seppellirà. you're alone and life is making you lonely, you can always go.